Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Incendi in Sicilia, intossicati 50 bambini di un asilo, chiusa la A20 tra Palermo e Catania, scatta l'evacuazione per alcune case e scuole, il vento di Scirocco spinge le fiamme. Europei di calcio, 36 arresti e 20 hooligan russi già espulsi, tensione diplomatica tra Mosca e Parigi, oggi in campo Inghilterra e Galles, domani l'Italia con la Svezia. È stucchevole e fumo negli occhi. Così il presidente dell'ANM Davigo sul whistleblowing, l'istituto che tutela i dipendenti pubblici che denunciano la corruzione, si alza allo scontro con Cantone. Il buco nella legge sull'omicidio stradale, pena più lieve se si rifiuta il test con l'etilometro. A Genova la procura ordina il prelievo di sangue coatto per aggirare il problema. Calabria, riunione in prefettura per decidere se sgomberare la tendopoli degli extracomunitari stagionali. Nei giorni scorsi uno di loro aveva aggredito un carabiniere ed era stato ucciso. Fuori kebab e mini market dai centri storici più belli. Il governo prende spunto dall'ordinanza di Firenze e vara un decreto con l'obiettivo di tutelare negozi storici o, per così dire, autoctoni. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere, 349-238-6666 tanto per i vostri sms quanto per i messaggi su WhatsApp. In apertura dunque gli incendi in Sicilia. Brucia ancora la Sicilia, il caldo soffio dello Scirocco e le temperature prossime ai 40 gradi alimentano i roghi divampati ieri sera nella provincia di Palermo. In un asilo nido a Monreale una cinquantina di bambini è rimasta intossicata dal fumo ed è stata trasportata all'ospedale in Grassia. Nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Diversi i centri abitati minacciati dagli incendi, pericolosamente vicini a case, scuole e alberghi. A Poggio Maria una donna intrappolata dalle fiamme che avevano circondato la sua casa è stata salvata dai forestali. Chiuse a causa dei roghi la Palermo-Messina tra Buonfornello e Castelbuono e la statale 113 tra Cefalù e Lascari, dove sono state evacuate un centinaio di persone. Il rogo più vasto a Collesano sulle Madonie, dove le fiamme minacciano anche la macchia mediterranea del parco naturale. Dall'alba di stamane, 9 squadre di pompieri stanno cercando di domare più fronti di fuoco con l'aiuto di 4 Canadair. Giuseppe Luongo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torneremo a parlarne nel corso di Effetto Giorno. Stiamo tentando di contattare il sindaco di Monreale, che è il paese nel quale sono rimasti intossicati i bambini, e anche il capo della Protezione Civile Siciliana per farci dare un quadro della situazione. Intanto cambiamo argomento e passiamo alla Brexit. Notizia di poco fa che è ondata a favore dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, anche secondo Ipsos Mori, il più importante istituto demoscopico britannico, rimasto fino a ieri ad indicare un vantaggio del fronte filoeuropeista in vista del referendum del 23 giugno. Questa la notizia di stamattina, che sta tra l'altro ancora una volta pesando sui mercati. Anche di Brexit ha parlato Jean-Claude Juncker a San Pietroburgo, dove si svolge il Forum Economico Internazionale. Atteso per questa sera Renzi, la nostra inviata Laura Bettini. Laura. Buongiorno, sì, buongiorno da San Pietroburgo, dove appunto si è aperto il forum economico proprio oggi con i saluti e gli interventi tra gli altri del segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon e del presidente della Commissione Europea Juncker, la cui sua presenza qui era stata molto contestata dai paesi baltici, e questo infatti Juncker ha ricordato proprio all'inizio del suo intervento. Sentiamo. We have those who like the idea that I'm here and we have those who don't like the idea, but I like. C'erano quelli che sono contenti che io sono qui, ci sono quelli che sono scontenti. Io, dice, personalmente sono contento di esserci. Nella mia carriera ho sempre costruito dei ponti. Bisogna smettere di parlare di Russia, ha aggiunto Juncker, ma parlare con la Russia per superare l'attuale regime di sanzioni. Comunque le parti devono completamente adempiere agli accordi di Minsk per la pacificazione dell'Ucraina, ma bisogna nel frattempo non interrompere il dialogo, secondo il presidente della Commissione. Nessun incontro pubblico comunque è previsto con il presidente russo Putin. Juncker poi ha colto l'occasione anche per esortare, così li ha chiamati, gli amici britannici a non lasciare l'Unione Europea, ma ha detto che anche con la Brexit comunque l'Unione Europea non è in pericolo di vita. Questo forum è dedicato all'Italia e, come dicevi tu, questa sera arriverà il premier italiano Matteo Renzi, e per l'Italia il giorno clou sarà domani con appunto l'incontro bilaterale Putin-Renzi. E grazie Laura Bettini per questo aggiornamento. Come si diceva, la questione sta pesando anche sui mercati. Milano in questo momento cede l'1,5% sul FTSE MIB e l'1,5% sul FTSE Share, ovviamente la questione della Brexit. Francoforte che cede lo 0,7%, Londra lo 0,6%. È stata una giornata pesante anche sui mercati asiatici. La borsa di Tokyo oggi è precipitata di oltre il 3% in presenza di un forte rafforzamento dello yen, dopo che la banca centrale giapponese ha rinunciato a offrire nuovi stimoli monetari all'economia. La banca centrale ha preferito evidentemente tenersi le munizioni in canna in vista di possibili maggiori turbolenze finanziarie per l'eventuale uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. I mercati hanno reagito male e lo yen si è rafforzato sull'euro ai massimi dal gennaio 2013, ossia fin da prima che la Banca del Giappone introducesse una strategia monetaria aggressiva. È una situazione che preoccupa il governo giapponese. Alcuni suoi esponenti hanno minacciato interventi diretti sul mercato dei cambi, che rischierebbero di innescare guerre valutarie. Quel che è peggio è che la Banca del Giappone ha riconosciuto per la prima volta il ritorno della deflazione, affermando che sul breve i prezzi al consumo core dovrebbero attestarsi a un livello leggermente negativo o a zero. Questo, oltre 3 anni dopo che l'Istituto Centrale si era impegnato a raggiungere, entro 2 anni, un target di inflazione del 2%. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tokyo. E torniamo alla nostra notizia di apertura, ossia gli incendi in Sicilia, in particolare nell'area di Palermo. Abbiamo in linea con noi Calogero Foti, che è il dirigente generale della Protezione Civile in Sicilia. Foti, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Ci dà un quadro della situazione? Abbiamo una situazione abbastanza critica nella provincia di Palermo, nella zona di Cefalù soprattutto, zone vicine, e poi sul Messinese, zona Patti ancora una volta. Quanti... Una serie di altri incendi più diffusi, sono circa una trentina di focolai diffusi su tutto il territorio, alcuni più gravi, altri meno gravi, insomma. Beh, mi sembra di capire che la situazione più difficile stamattina si è vissuta a Monreale, no? Dove è stato anche evacuato un asilo. Sì, ma non è stata la più critica. Lì è stato il fumo che ha prodotto questo, una situazione di tossicità, e sono stati precauzionalmente inviati i bambini in ospedale, ma adesso sono tutti già stati messi e sono nelle loro case. Dal punto di vista del territorio e dell'impegno delle forze messe in campo, forestali del fuoco, volontari di protezione civile, sicuramente quella che ha destato più preoccupazioni a partire da questa notte è quella che è intorno a Gratteri, Lascari e Cefalù. Aggravata dal fatto che le condizioni meteo particolarmente avverse, in quanto il vento supera i 40 e passa nodi, non hanno consentito anche l'attività dei Canadair, quindi l'unica azione che si è potuta effettuare quella da terra, con le difficoltà del caso. Come sono le previsioni dal lato del vento soprattutto? È previsto che questo scirocco prosegua? Dovrebbe essere in diminuzione già dalle prime ore pomeridiane, e questo noi speriamo che possa consentire la ripresa delle attività di contrasto attraverso i mezzi aerei. Ultima domanda, è ancora chiusa la A20? È chiusa la A20. In parte anche la 113, e le azioni sono seguite, diciamo, dal centro di coordinamento presso la prefettura, dall'operativa regionale, dalla sala della quella dei vigili del fuoco, è frequente contatto. La stiamo perdendo, ma insomma mi sembra che le informazioni ci siano. La ringrazio intanto a Calogero Foti, direttore generale della Protezione Civile Sicilia, per questo aggiornamento. Passiamo a parlare degli europei, iniziando però da quella che potremmo definire una sorta di cronaca diplomatica dei problemi tra Russia e Francia, anche per le espulsioni degli hooligan. Dopo gli scontri di Marsiglia, Cannes e Lille tra hooligans russi e inglesi, la polizia francese ferma un bus con 43 tifosi russi pronti ad assistere alla partita con la Slovacchia e Mosca insorge. Un comportamento inammissibile, avevano l'obbligo di informarci ma non l'hanno fatto, dice il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che come tutta risposta convoca l'ambasciatore francese Jean-Maurice Ripert. Alimentare sentimenti anti-russi potrebbe portare a un significato significativo aggravamento delle relazioni con la Francia, spiega sempre il ministro, e il Cremlino, pur ammettendo in parte le colpe dei propri connazionali, parla di provocazioni da parte degli inglesi. Speriamo in un trattamento equo nel corso delle indagini, si augura il portavoce di Putin. Il riferimento è alla UEFA, che al momento per i tafferugli ha multato solo la Federcalcio russa con una sanzione da 150.000 euro, e se ci saranno altri scontri, la nazionale sarà esclusa dagli europei, già a rischio per la classifica. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come si diceva, dal lato della cronaca ci sono una ventina di espulsi questa mattina, di tifosi russi espulsi, 36 arresti. Dario Ricci, nostro inviato in Francia. Dario, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, ci troviamo sulla strada verso Tolosa perché ci apprestiamo a seguire la nazionale che domani alle 15 affronterà la Svezia, ma partiamo proprio dalla cronaca a completare la pagina che abbiamo aperto. Come ricordavi, ancora una volta è Lille stato l'epicentro di questi scontri dopo Russia-Slovacchia, e oggi tra l'altro alle 15 all'Anna, che ricordo ancora una volta dista solamente 40 km da Lille, va in scena il derby britannico Galles-Inghilterra. Tra l'altro le tifoserie delle due nazionali si sono in queste giorni coalizzate contro gli ultra russi, quindi speriamo davvero che non accada quello che però è molto probabile che possa accadere. Tornando al calcio invece, appunto, si va verso Tolosa, verso questa sfida con la Svezia del grande amico nemico del nostro calcio Zlatan Ibrahimovic. Questa mattina allenamento di rifinitura per gli azzurri, visibile alla stampa per il primo quarto d'ora. Torello di pragmatica e grandi sorrisi d'abitudine, poi Conte con un gesto della mano ha invitato tutti a cambiare campo. Insomma, dopo le immagini per le TV e aver appagato gli occhi di noi giornalisti, si è andati all'altro campo a far sul serio, a preparare questa sfida comunque importantissima in chiave qualificazione agli ottavi. Ti ringrazio, grazie a Dario Ricci, che ovviamente ritroveremo anche in tutti i convocati a partire dalle 14. Veniamo alla politica, ma iniziando non dalle amministrative ma dalle dichiarazioni del presidente dell'ANM, Piercamillo Davigo. Il white bowling, l'istituto anticorruzione a tutela dei dipendenti che segnalano i reati, non serve. È una cosa stucchevole e fumo negli occhi. Il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Piercamillo Davigo, boccia la norma prevista nel piano dell'ANAC, l'Agenzia Nazionale Anticorruzione, e inserita in una proposta di legge in discussione alla Camera. Il fischiatore, ha spiegato Davigo intervenendo a un convegno, è una cosa stucchevole perché se parliamo di dipendenti pubblici, questi hanno l'obbligo di denuncia. Stiamo parlando del nulla, ha chiarito il presidente di sezione della Cassazione ed ex PM del pool Mani Pulite. Davigo, come aveva già fatto nei giorni scorsi, è tornato a parlare dell'inutilità del nuovo codice degli appalti. Pensare di affrontare la piaga della corruzione con nuove norme sugli appalti è inutile, ha detto. Che senso ha poi aumentare le pene se non si scoprono i corrotti e i corruttori? Davigo non risparmia critiche neppure ai consigli di amministrazione delle società, dove, dice, si commettono reati di maggiore gravità e più pericolosi di quelli che si commettono in strada. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo comunque a poche ore dai ballottaggi, restiamo sulla politica. Ultimi giorni di campagna elettorale in vista dei ballottaggi di domenica e ultimi appuntamenti per i candidati in corsa nelle varie città. A Roma, in Piazza del Campidoglio, ieri sera è andato in scena anche l'ultimo faccia a faccia televisivo fra Virginia Raggi e Roberto Giachetti, fra la candidata del Movimento 5 Stelle e lo sfidante democratico. Divisi su molti temi, sono state scintille soprattutto su Olimpiadi, trasporto pubblico e debito della capitale. Nel Partito Democratico, nel frattempo, non accennano a diminuire le polemiche per le frasi attribuite a Massimo D'Alema dal quotidiano Repubblica, secondo il quale l'ex premier non solo avrebbe detto di essere pronto a votare Virginia Raggi, ma avrebbe anche cercato di convincere lo storico dell'arte Tommaso Montanari ad entrare nella sua giunta come assessore alla cultura. Ricostruzioni smentite in modo netto anche oggi dal diretto interessato, che parla di montatura per colpirlo. Stanno cercando un capro espiatorio perché domenica temono risultati molto più deludenti delle attese, contrattacca D'Alema in un'intervista alla stampa. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo alla cronaca, ricorderete la vicenda di Domenico Mauro Antonio, lo studente di 19 anni che era morto a Milano mentre era in gita con i compagni. Ebbene, ci sono delle novità. Gli sono state alzate le gambe da terze persone, dopodiché c'è stato lo sganciamento, non si sa se intenzionale o meno. questa la rivelazione di una nuova perizia di parte che di fatto escluderebbe l'ipotesi del gesto autolesionistico nella morte a Milano dello studente padovano Domenico Mauro Antonio, in gita con la classe, in visita all'Expo, e che aprirebbe la strada alla presenza, al momento della caduta, di altre persone. La perizia sarà depositata nei prossimi giorni da parte dell'avvocato della famiglia del giovane, Eraldo Stefani. Il caso non è mai stato chiuso, anzi, l'inchiesta è stata prorogata alla scadenza dei termini e l'impronta della mano destra del ragazzo rimasta sui muri esterni dell'hotel Leonardo da Vinci, su cui si basa la perizia, era già stata trovata e isolata dagli investigatori, a una distanza intorno ai 2 metri dal davanzale, al quinto piano della finestra dalla quale all'alba del 10 maggio 2015 il ragazzo precipitò. Inoltre la perizia sostiene che il corpo sia stato spostato e avvicinato all'hotel. Il legale ha precisato che non si è mai parlato di omicidio ed esclude il suicidio, ma ad oggi ancora nessuno parla e non si sa come Domenico abbia perso la vita. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Oltre alla stretta sui cosiddetti furbetti del cartellino, ieri il governo ha varato un decreto che riguarda i centri storici. Era atteso da molti sindaci il decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, che ora verrà trasmesso al Parlamento, a tutela delle botteghe storiche nelle città d'arte. In pratica, come ha spiegato lo stesso ministro ai beni culturali Franceschini, la norma prevede che i comuni, d'intesa con le regioni, possano individuare zone di particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, in cui vietare o subordinare ad autorizzazione l'esercizio di attività commerciali non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I nostri centri storici sono luoghi dove riscoprire e valorizzare la nostra identità perduta e così si dice basta alle città d'arte trasformate in mercatini di merce scadente a favore delle botteghe d'artigianato e d'arte e dei nostri mercati tradizionali. Basta ad ambulanti, fast food e mini market che vendono alcol a fiumi. Particolarmente soddisfatto il primo cittadino di Firenze, Dario Nardella, uno dei primi ad incoraggiare questa svolta. Per Nardella, come ha dichiarato in un'intervista, c'è infatti una relazione diretta tra la deregulation commerciale e il drastico abbassamento della qualità di vita nei nostri centri storici. Un tessuto commerciale diverso avrà anche la funzione di richiamo per un turismo colto e di qualità. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci sono dei buchi nella legge sull'omicidio stradale, ne parliamo dopo il traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della difficile situazione per gli incendi in Sicilia, abbiamo parlato agli europei di calcio non solo per le questioni sportive ma anche per quelle diplomatiche, i problemi tra Russia e Francia sul tema degli hooligan, della posizione del presidente dell'ANM Davico sul cosiddetto whistleblowing, che dice è stucchevole e fumo negli occhi. E adesso ci occupiamo di omicidio stradale, iniziando il nostro giro per l'Italia e facendolo da Genova. Siamo in linea con il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi. Buongiorno dottor Cozzi, benvenuto. Buongiorno. Allora, succede questo, che nella legge sull'omicidio stradale c'è un buco che è anche abbastanza grave, perché se uno si rifiuta di sottoporsi al test dell'etilometro, incorrerebbe in sostanza nella pena più lieve, cioè si toglierebbe o si diminuirebbe la parte che comprende la guida in stato di ebbrezza. Ho capito bene, procuratore? Sì, va fatta questa precisazione. In realtà non è propriamente così, perché la stessa legge ha attribuito alla autorità giudiziaria e al pubblico ministero in particolare, informato preventivamente dalla polizia giudiziaria che è sul luogo del fatto, di emettere un decreto motivato, anche in via orale anticipatamente da confermare per iscritto, con il quale, ritenendo indispensabile il prelievo coatto per gli accertamenti necessari a stabilire lo stato di alterazione da alcol o da stupefacenti, viene disposto appunto un prelievo coattivo di campioni biologici utili ad accertare lo stato di alterazione. Il problema, se posso andare avanti... Prego, prego, prego. Il problema è che quello che la legge o alcuni commentatori non hanno considerato attentamente è il fatto che per alcuni soltanto alcuni prelievi possono accertare in modo equivalente all'etilometro lo stato di alcolemia. Certo. Perché la legge precedente faceva riferimento ai prelievi di campioni salivari della mucosa orale o ai campioni piliferi, ma questi campioni, anche se estratti coattivamente, non consentono di accertare il grado il vero, di alterazione, il tasso alcolemico. La faccio molto semplice, procuratore: nel caso non venga disposto il prelievo coattivo del sangue, che cosa succede? Io non soffio nell'etilometro, decido di non sottopormi al test dell'etilometro, e invece di rischiare tra gli 8 e i 12 anni di reclusione, ne rischio tra i 2 e i 7, anche se da ubriaco magari ho investito una persona e l'ho uccisa. Io rispondo comunque del reato di rifiuto di sottopormi all'etilometro, sì, che però è una contravenzione. Ecco, questo mentre, è il punto. Mentre magari l'altro conducente che è stato sottoposto al prelievo ematico, perché magari è rimasto ferito nell'incidente e quindi, essendo coinvolto e corresponsabile anche lui, sottoposto all'accertamento ematico, risulterà invece positivo. Per cui avremo la situazione paradossale che la persona che si è rifiutata, che magari è maggiormente responsabile del sinistro con lesioni gravi, gravissime, non risponderà del reato aggravato, sì, mentre la persona che ha la responsabilità minore verrebbe sottoposta a prelievo ematico a fini terapeutici, che può essere utilizzato anche a fini di accertamento dello stato di ebbrezza, e verrà condannato magari con l'aggravante. Ecco perché noi siamo venuti da lei e siamo andati a Genova nel nostro inizio di giro per l'Italia, perché lei ha emanato una direttiva su questo. Mi sembra di capire, rispetto a quello che ci diceva, che di fatto scavalca la necessità di una richiesta al PM di poter effettuare il prelievo di sangue coattivo, questo... o no? No, questo no, assolutamente. Cioè, semplicemente noi abbiamo detto che il decreto del pubblico ministero che dispone il prelievo coattivo non può riguardare soltanto la saliva o i peli o altre sostanze di questo tipo, per il semplice motivo che sono del tutto inutili ad accertare l'esistenza o meno dell'aggravante, ma deve riguardare quei campioni biologici che sono utili, e in particolare l'unico per l'alcol è l'ematico, mentre per quanto riguarda gli stupefacenti, per fortuna, è quello salivare, perché l'accertamento sul campione salivare è equivalente in materia di stupefacenti o, sì, di sostanze psicotrope all'accertamento sul campione ematico. Per cui, in sostanza, il pubblico ministero deve, nel caso di rifiuto e nonostante, sì, vengano evidenziate le conseguenze a cui si espone il responsabile, mm-hmm, e viene informato anche della possibilità di essere sottoposto a prelievo coattivo, sì, la polizia giudiziaria informerà il pubblico ministero, il pubblico ministero potrà emettere il decreto motivato disponendo il prelievo coattivo ematico. Ecco, questo avete deciso, su questo avete deciso di agire, appunto per colmare quello che poteva essere un buco nella legge, e insomma ci saremmo potuti trovare con qualche caso, come dicevamo, nel quale si arriva ad una pena più lieve per persone che magari da ubriache hanno investito qualcuno. La ringrazio, grazie al procuratore capo di Genova Francesco Cozzi. E nel nostro giro per l'Italia ci spostiamo in Calabria di nuovo, dove si trova in queste ore la nostra Raffaella Calandra, ed è una vicenda della quale ci siamo occupati. Ricorderete nei giorni scorsi il ragazzo extracomunitario che, secondo la ricostruzione data dai carabinieri, ha aggredito un carabiniere con un coltello. Il carabiniere ha reagito e ha sparato, e abbiamo raccontato che tutto questo è avvenuto all'interno di quella che è una vera e propria tendopoli, dove si trovano gli extracomunitari che lavorano in agricoltura, una tendopoli strutturata qualche tempo fa dal Ministero dell'Interno, che è diventata una sorta di baraccopoli, una specie di buco nero, come dire, sul territorio italiano. Raffaella, eccoci, raccontaci un po'. Sì, Simone, è una baraccopoli che è stata creata quando è stata smantellata quella di Rosarno, a meno di un chilometro di distanza da qui, da San Ferdinando, dopo la rivolta dei migranti del 2010. Io sono appena uscita appunto da questa tendopoli, dove devo dire senti l'odore della rabbia quando entri appunto tra le tende di San Ferdinando. Lo senti in questo caldo asfissiante delle tende blu del Ministero dell'Interno o delle baracche col tetto di cartone e plastica, dove un alito di vento viene cercato con ogni energia in cartoni che diventano improvvisati improvvisati ventagli. E la senti poi questa rabbia negli occhi e nel modo in cui anche le centinaia di migranti, lavoratori stagionali mi hanno circondato, mi hanno parlato, innanzitutto per raccontare quello che è successo quando appunto un giovane maliano tra i re è stato ucciso da un carabiniere. Una rabbia che a tratti diventa anche aggressiva, devo dire, pure nei confronti della cronista, e diventa poi facile motivo di ulteriore tensione tra gruppi e nazionalità diverse. Ora questo è uno dei momenti peggiori in quest'angolo della piana di Gioia Tauro, perché ora anche la raccolta degli agrumi è finita e con essi quei 25 euro al giorno che permettono a questi migranti di poter comprare qualcosa anche da mangiare, scarpe o anche negli stessi improvvisati impori creati tra le lamiere di questa tendopoli, che è diventata una sorta di villaggio parallelo a quasi autosufficiente. Si mangia su bidoni, ci si lava in altri bidoni e nel momento in cui le tende sono piene anche il bagno diventa una conquista. Una tensione così forte che ha portato proprio in queste ore ad una riunione all'interno del comune di San Ferdinando con rappresentanti della prefettura e gli enti locali della zona, oltre a tutti gli operatori che lavorano con i migranti, perché il progetto è quella di smantellare anche questa tendopoli, di lasciare, di rinnovare, cambiare le tende, lasciare lì soltanto 400 persone e ridistribuire invece tutti gli altri che arrivano anche a più di 1000 nel momento in cui la raccolta degli agrumi e degli altri lavori è nella sua picco, tra i vari 32 comuni della piana. Parleremo tra poco, appunto quando terminerà la riunione, anche con il sindaco, ma questo sicuramente alleggerirebbe la tensione anche nei rapporti nei confronti della comunità, che ha a sua volta tanti problemi soprattutto sull'agricoltura, perché c'è anche questo che bisogna dire, che qui un chilo di arance viene venduto a 6 centesimi e quindi devo dire che anche questo pesa. Ovviamente nel clima all'interno della tendopoli molto peserà anche rispetto all'andamento delle indagini sulla morte appunto del giovane maliano Traoré, su cui tutti gli altri migranti hanno una versione che è diversa da quella che ricordavi, data dai carabinieri e dalla procura, una versione che mi hanno ripetuto e che hanno affidato anche all'avvocato che sta seguendo la vicenda per nome di uno dei cugini della vittima, l'avvocato Santino Piccoli, che abbiamo sentito. I ragazzi dicono che erano più militari, diciamo, non abbiamo capito se erano solo carabinieri o anche poliziotti, all'interno della tenda con il ragazzo, dopo erano solo loro dentro e poi dopo un po' di tempo si è sentito uno sparo. Mentre c'è una ricostruzione, una versione data da un bollettino dei carabinieri che dice che si è intervenuti in una situazione di pericolo con un coltello e poi uno sparo fatto per difesa. Il problema è sorto in una tenda, è adibita a bar, diciamo, dei ragazzi. I ragazzi avrebbero chiamato i carabinieri per calmare un ragazzo che era un po' alterato. E sono arrivati questi 6 o 7 carabinieri, si sono chiusi nella tenda, hanno fatto uscire tutti gli altri e in quella tenda non si è capito bene che è successo. E grazie dunque alla nostra Raffaella Calandra per questo racconto dalla tendopoli di San Ferdinando. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi proseguiremo il nostro giro per l'Italia per parlare innanzitutto del decreto legislativo, quello varato dal governo, quello che è popolarmente noto per bloccare i kebabari nei centri storici come quello di Firenze. Parleremo con il presidente dell'Associazione Esercizi Storici Fiorentini e poi una piccola storia pucciosa, per così dire, la vicenda di una ragazzina, di una bambina di 8 anni che ha trovato sul Po una tibia di un mammut. Piccoli paleontologi crescono, tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri titoli. Incendi in Sicilia, è chiusa la 20 tra Palermo e Catania, è scattata l'evacuazione per alcune case e scuole, sono intossicati alcuni bambini di un asilo a Monreale, il vento di Scirocco spinge le fiamme ma dovrebbe calmarsi nel primo pomeriggio. Gli europei di calcio, 36 arresti e 20 hooligan russi già espulsi, su questo c'è tensione diplomatica tra Mosca e Parigi, oggi in campo Inghilterra e Galles, domani l'Italia con la Svezia. È stucchevole ed è fumo negli occhi, così il presidente della NM Davigo sul whistleblowing, l'istituto che tutela i dipendenti pubblici che denunciano la corruzione. La questione della Brexit, anche secondo Ipsos Mori, il più importante istituto demoscopico britannico, il vantaggio in questo momento è per chi vuole lasciare l'Unione Europea. Preoccupazioni dalle banche centrali e siamo alla borsa. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo per parlare di questo decreto legislativo varato dal governo ieri, che prevede che i comuni, d'intesa con le regioni, possano individuare alcune zone che abbiano particolare valore archeologico, storico, artistico e subordinare a questo l'autorizzazione all'esercizio di alcune attività commerciali. Tutti abbiamo pensato ovviamente a kebab e mini market. Una ordinanza di questo genere, a dire il vero, era stata già varata dal comune di Firenze e ne avevamo parlato con l'assessore. Siamo in linea con Gerardo Filippeschi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Filistrucchi, scusi. Buongiorno. Titolari Filistrucchi Parrucche, 3 secoli di attività, presidente dell'Associazione Esercizi Storici Fiorentini. Mi dice un po' come vanno le cose da quando il Comune di Firenze ha varato questa stretta sugli esercizi, vogliamo chiamarli non autoctoni o comunque poco compatibili con il centro storico? Una decisione abbastanza recente, quindi deve vedere pian piano la sua attuazione, ecco, diciamo la verità. Noi siamo molto contenti che il governo abbia varato e dato il via libera a questo decreto, che siamo contenti che possa portare degli sviluppi per quanto riguarda le attività storiche, botteghe storiche presenti in ogni parte d'Italia. È un decreto legge che è partito da Firenze per volontà della senatrice Rosa Maria Di Giorgi e noi siamo molto contenti, stiamo aspettando i risultati, abbiamo portato avanti le nostre decisioni, le nostre proposte e sono contento che in parte siano state recepite a livello nazionale. Non è un po' una discriminazione? Io dicevo anche all'assessore l'altra volta, no? E diceva vengono privilegiati i negozi che vendono prodotti toscani, appunto. Gli dicevo all'assessore, ma io sono umbro, se voglio aprire un negozio di prodotti bevanati nel centro storico a Firenze non me lo fate fare. No, ma non è questo il fatto è tutelare appunto una realtà che ogni città ha alla stessa stregua dei monumenti, scusi, la presunzione, realtà che sono radicate bene nella città per poter riuscire a salvaguardarle, promuoverle, tutelarle. Questo è uno strumento che i comuni in generale hanno, poi sulle realtà locali dovremo vedere come le amministrazioni comunali attueranno questo decreto e lì allora sarà interessante la partita. Certo, sarà là da vedere. Grazie Filistrucchi, le auguro una buona giornata. Buon pomeriggio a tutti. Grazie. Buon pomeriggio Gerardo Filistrucchi, titolare di Filistrucchi Parrucche, presidente dell'Associazione Esercizi Storici Fiorentini. E adesso una piccola storia per chiudere, l'abbiamo pescata dal Corriere della Sera, è la storia di Emma Persico, 8 anni, che in riva al Po ha trovato la tibia di un mammut, ma è fortunata. Davide Persico, il papà, buongiorno. Buongiorno. È fortunata, ma insomma, diciamo, forse è stata anche aiutata perché lei fa il paleontologo. Sì, mi occupo di paleontologia da anni al Museo di San Daniele Poi, all'Università di Parma, e quindi siamo andati in escursione proprio alla ricerca di fossili. E l'ha trovato lei però, l'ha trovato sua figlia? Assolutamente sì, l'ha trovato lei con un occhio, devo dire, formidabile, l'ha visto poco esposto nella sabbia, ancora nell'acqua del fiume, e ha provato ad estrarlo, l'ha scavato un po' con le mani, l'ha estratto, non è un osso enorme, diciamo la parte superiore di una tibia, però un ritrovamento eccellente. Sì, è un ritrovamento eccellente, tra l'altro ci sono le foto, no, sul Corriere della Sera, a noi che siamo delle capre su questo ci sembra un sasso fondamentalmente, mentre invece no. A molti sembra un sasso, invece vedendolo dal vero è un osso parzialmente fossilizzato, quindi impregnato di minerali, ha cambiato completamente colore, è impregnato un po' di sedimento, però è assolutamente un osso con una parte corticale, una parte spugnosa, e la morfologia indica appunto appartenere ad un proboscidato, probabilmente un giovane mammut, viste le dimensioni non eccezionali del reperto. Avviata ad una brillante carriera, Emma. Assolutamente sì, è già sulla strada per essere un buon naturalista, e vedremo quale strade sceglierà poi dopo nella sua vita. Sì, perché 8 anni sono pochi alla fine, insomma, per decidere una cosa di questo genere. Ma in zona pensate ci possano essere altri reperti? Non è che vogliamo mandare persone altre persone diciamo alla ricerca. Tutto il tratto di fiume che va da Cremona fino a Casalmaggiore è un sito paleontologico molto, molto interessante. Le spiagge sono, dopo ogni piena, sono quasi sempre cosparse di fossili e di reperti archeologici. Sta nell'occhio dell'osservatore riuscire appunto a individuarli, a differenziarli, a classificarli e di conseguenza poi dopo a consegnarli ad un museo per gli studi successivi. La ringrazio, grazie Davide Persico, ricercatore paleontologo all'Università di Parma e padre di Emma, che ha fatto questo bel ritrovamento. Una piccola storia per chiudere prima di prenderci una pausa: il traffico, Mario Platero e poi ritrovarci per i saluti.